Beh, certo, farà discutere anche questa ricerca. L'ultima segnalazione viene da il film, o meglio la fiction, su Papa Pio XII. Una fiction che agli ebrei, alla comunità ebraica di Roma in particolare, non piace. Il rabbino contro la fiction, propaganda su Pio XII. Il rabbino capo di Roma è Riccardo Di Segni, falso che il suo intervento aiutò gli ebrei. Ha visto il film e al mensile Shalom ha diffuso la sua reazione, una reazione molto dura. Molto semplicemente, questo sceneggiato è una patacca, così l'ha definita Riccardo Di Segni. Su questa storia c'è una drammatica discussione da moltissimo tempo con opinioni contrapposte, mentre questa fiction appoggia in pieno una delle due opinioni. Mi meraviglio come la RAI abbia potuto consentire una realizzazione così parziale, venendo meno all'obbligo di informazione obiettiva di un servizio pubblico. Insomma, Riccardo Di Segni, 60 anni, rabbino capo di Roma, dice: quella fiction su Pio XII è una patacca. Votate il sondaggio: in caso di crisi, governo tecnico o elezioni? Ora il GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua per l'intervista. Oggi ospitiamo il sindaco di Pistoia, Renzo Berti. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Senta, il comune di Pistoia, leggiamo almeno ieri dai giornali, è la prima amministrazione pubblica che si è dato un regolamento. Lo sintetizzo così: nello stesso ufficio, negli uffici del comune, non ci potrà essere un rapporto tra superiore e subordinato, non ci potranno stare parenti fino al terzo grado, e neppure marito e moglie, è così? Sì, e neanche conviventi. Neanche conviventi, per le coppie di fatto. E come mai avete fatto questa norma? Ma per una necessità di dare un'immagine forte di obiettività, di trasparenza, di attenzione al merito, perché una situazione come quella che lei descriveva può ingenerare nell'opinione pubblica l'ipotesi che ci siano, come dire, attenzioni privilegiate, che quindi un sottoposto legato da una parentela con il suo capo possa magari averne un vantaggio. Questo non è ammissibile. Ma ce ne sono tanti di casi, si è dovuto fare questa norma perché ci sono casi di parentele, ci sono intrecci davvero inestricabili nel comune? No, i casi sono pochi in effetti, è una norma più che altro a carattere preventivo, quindi c'è stata una sollecitazione da parte di un consigliere comunale, noi l'abbiamo esaminata positivamente e abbiamo conseguentemente prodotto un atto amministrativo. Senta, la questione dei conviventi però mi interessa, perché vuol dire che due persone, due dipendenti del comune nello stesso ufficio si conoscono e iniziano una relazione e vanno a vivere insieme, e che succede? Dovrebbero dichiararvelo? Beh, soltanto se il capo è uno dei due, perché nel caso si tratti di pari grado non c'è un problema di questa natura, perché non c'è un rapporto gerarchico. Diciamo che i dirigenti e i funzionari interessati dalla normativa devono produrre un'autocertificazione. Cioè, se ci fosse, sì, certo, due di pari grado no, ma mettiamo che uno è il superiore e uno è il sottoposto, diciamo. Il capo così si innamora della sottoposta o la capa si innamora del suo sottoposto. E che devono fare? Devono venire a dirlo? Cioè, devono fare outing? No, questa è una cosa che riguarda loro, ma nel momento in cui vanno a vivere insieme oppure contraggono un matrimonio, quindi si stabilisce un legame di fatto o anche formalizzato, si rientra in quella situazione di incompatibilità che prima dicevamo, e quindi nulla vieta, anzi ben venga una loro relazione, ma evidentemente uno dei due deve cambiare di posizione. Non sono più compatibili, quindi sì, certo, perché questo vorrà dire che dovrete anche fare degli spostamenti quando accerterete delle situazioni di questo tipo. Sì, infatti noi faremo rapidamente una ricognizione affidata appunto all'autocertificazione dei soggetti interessati, e sulla base di questo quadro cercheremo di trovare con coloro che devono modificare la propria situazione, di trovare un'intesa trasferendoli ad una unità operativa diversa da quella iniziale. No, la cosa interessante però è questa, sindaco: se due vanno a vivere insieme non credo che debbano dichiararlo, cioè andiamo a vivere insieme, a meno non devono fare passi ufficiali, però secondo lei dovrebbero invece dichiararlo alla luce di questa norma? Se c'è una convivenza fisica, quindi se contraggono un rapporto di residenza congiunta, si rientra nell'applicazione normativa e quindi dovranno produrre, non il giorno dopo, ma insomma una certificazione per la quale si procederà ad applicare la norma. Ma è davvero così, cioè, impensabile che due persone con questo tipo di relazione possano convivere, possano lavorare tranquillamente senza creare problemi all'amministrazione pubblica? Non penso che sia un problema enorme, le dicevo più che altro una necessità nei confronti dei cittadini, perché lei capisce che e anche degli altri dipendenti, nel momento in cui un soggetto dipende da un parente, se questo soggetto poi viene, mettiamo, premiato, il sospetto che il premio derivi non dal merito ma da condizioni di privilegio è forte. Quindi vogliamo anche nell'interesse di queste persone evitare situazioni di questo tipo. La so che l'assessore al personale che ha portato avanti questa cosa dice non è una norma antinepotismo, perché non è che si interviene nel momento in cui si assume, cioè si vieta di assumere un parente, si interviene su una situazione che già c'è, cioè le persone che sono all'interno vengono smistate se hanno questo tipo di rapporti. Però mi risulta che sia la prima norma di questo genere in Italia, non so, a lei risulta che ci siano altri casi, forse in alcune aziende private in Svizzera qualcuno ha notato che c'è questo codice etico che tiene conto di questo tipo di relazioni interpersonali. No, anche a noi risulta essere il primo provvedimento di questo tipo, tant'è che ha suscitato molta curiosità, tante amministrazioni si sono rivolte per averne copia. Devo dire che l'atteggiamento che ho riscontrato è un atteggiamento positivo, quindi di una curiosità costruttiva, come se questo potesse diventare un precedente positivo. Insomma, relazioni sì, ma se si hanno relazioni ci si sposta d'ufficio. Questa è la dura legge del comune di Pistoia, mi sembra di capire. No, noi abbiamo anche a livello nazionale troppi esempi in cui i rapporti di subordinazione gerarchica poi inducono atteggiamenti che non sono quelli richiesti a un dipendente. Poi se siamo nel campo dell'amministrazione pubblica, a maggior ragione c'è questa esigenza di trasparenza e di obiettività. Va bene, io sindaco la ringrazio per essere stato con noi. Renzo Berti è sindaco di Pistoia del Partito Democratico, non l'ho detto, eccoci qua. E allora, questa norma che fa discutere niente, i parenti fino al terzo grado e anche marito e moglie separati in ufficio se c'è un rapporto di superiore e subordinato. Questo al comune di Pistoia, primo caso in Italia. Grazie, ovviamente ci fermiamo dopo il pubblicità e meteo nel nostro sondaggio che invito già a votare, state già votando in molti su radio24.it nell'home page. Parliamo di politica perché sembra davvero la settimana dello snodo, di almeno a leggere i giornali, una settimana decisiva, qualcuno parla sempre più esplicitamente di possibilità di crisi. In caso di crisi vi chiediamo, secondo voi bisogna andare alle urne oppure è lecito anche un governo tecnico, quello che per esempio ieri Calderoli della Lega ha definito sarebbe un golpe. Che ne pensate? Potete anche chiamarci 800 24 0024 tra pochissimo. 24 mattino. Quando sono le 8:32 minuti, eccoci qua. Dunque, nel nostro sondaggio di oggi parliamo di politica, della situazione nel nostro paese. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? La domanda semplice che vi facciamo su radio24.it, vi invito lì a votare, state già votando in molti, siete divisi esattamente a metà, il 50% è in caso di crisi di governo, secondo voi bisognerà andare alle elezioni oppure è possibile anche un governo tecnico? Certo, costituzionalmente è possibile il governo tecnico, ma qui parliamo della questione politica, se qualcuno, come per esempio il ministro Bondi di recente ha detto, sarebbe costituzionalmente legittimo, ma politicamente inaccettabile. Berlusconi ieri in una delle anticipazioni al libro di Bruno Vespa ha detto sarebbe inaccettabile mandare al governo chi ha perso le elezioni. Oggi il ministro Sacconi, intervistato dal Sole 24 Ore, dice no a governi di rottura, credo che il presidente Napolitano non potrebbe mai accettare un governicchio debole, un governo della rottura utile solo a consegnare il potere democratico a chi è stato sconfitto dal voto o a chi con il voto stesso non si confronta mai. La Lega dice mai governo tecnico. Dall'altra parte però, che se ne parli sempre più con insistenza, è un dato di fatto che si parli di una possibile crisi o comunque di una situazione politica molto molto instabile. Ne vogliamo parlare con due ospiti, l'onorevole Mario Valducci, presidente della Commissione Trasporti alla Camera. Buongiorno onorevole Valducci, ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro è anche tra i fondatori di Forza Italia, una persona molto molto vicina al premier Berlusconi. Saluto anche l'onorevole Bruno Tabacci dell'Alleanza per l'Italia. Buongiorno onorevole Tabacci. Buongiorno. Allora io inizierei, Valducci, inizierei da lei, perché qui io oggi ho fatto la rassegna stampa, insomma, la stampa dice cavaliere barcollante, si parla, si vocifera addirittura di una nuova inchiesta proveniente dalla Sicilia, non quella della nuova escort che è spuntata dai giornali, ma un'inchiesta su nuove rivelazioni sulle stragi mafiose. Stefano Folli sul Sole dice un governo virtualmente morto. Anche Libero dice guardate che qui viene giù tutto. Onorevole Valducci, è davvero una situazione così drammatica politicamente? Ma guardi, è drammatica da quando c'è stato lo strappo confini, e da allora, ormai siamo dal mese di aprile-maggio, chiaramente c'è una maggioranza che alla Camera senza i voti dei Fignani non ha più i 316 voti, mentre al Senato li ha ancora, e quindi da allora uno strappo, insomma, causato da origini misteriose, nel senso che comunque nonostante grandi risultati elettorali dopo la vittoria delle elezioni politiche, ricordo che abbiamo vinto le europee, le regionali, le comunali, le provinciali in questi ultimi due anni, quindi oggi si discuterà molto delle elezioni midterm in America, dove i sondaggi danno Obama in difficoltà, quindi in tutto il mondo chi governa in difficoltà, da noi il governo viene premiato, e nonostante questo si crea una frattura all'interno del Popolo Libertà con la nascita di gruppi parlamentari prima e di un partito successivamente, che chiaramente mette in difficoltà il governo, come sta facendo anche nelle ultime ore, perché nonostante un voto formalmente di grande maggioranza dato il 30 di settembre e il 1 ottobre, quindi esattamente un mese fa, in realtà poi quando si va a discutere dei temi ci sono sempre dei distinguo che chiaramente rendono difficile il percorso di questo governo. Lei, secondo lei, se ci dovesse essere una crisi bisognerebbe votare? Perché questa cosa del governo tecnico, sia Berlusconi, la Lega, anche oggi Sacconi, viene considerata inaccettabile politicamente? Ma guardi, noi l'abbiamo sempre ritenuta inaccettabile sia quando abbiamo vinto le elezioni, sia quando le abbiamo perse, quindi le abbiamo ritenute inaccettabili nel 95 e le abbiamo ritenute inaccettabili nel 2008 quando il governo Prodi cedette il passo ai due governi D'Alema prima e poi il governo Amato. Perché? Perché siccome durante le campagne elettorali della cosiddetta Seconda Repubblica al cittadino elettore è chiarissimo chi viene chiamato a fare il Presidente del Consiglio, con quale maggioranza, con quali partiti che lo sostengono, qualsiasi cambiamento successivo è un qualcosa che noi riteniamo non corretto nei confronti dell'elettore. A questo si aggiunga che nel caso di oggi, in cui si discute oggi, sarebbe ancora di più ribaltone, nel senso che il Popolo della Libertà, la Lega Nord, Berlusconi Presidente vincono le elezioni 2008, gli stessi rimangono tra di loro alleati e si paventa, diciamo, un governo diverso. È come se nella cosiddetta Prima Repubblica il Presidente della Repubblica avesse dato il mandato al Partito Comunista Italiano che aveva perso l'elezione. Insomma, un ribaltone politico. Onorevole Tabacci, lei la vede allo stesso modo? Cioè, sì, costituzionalmente sappiamo che c'è un percorso tutto legittimo e lecito, e poi nel caso sarà tutto in mano al Presidente della Repubblica, ma politicamente sarebbe così inaccettabile secondo lei? Beh, però vede che lei ha già spiegato le cose. Come mai le cose sono in mano al capo dello Stato? Vuol dire che non ci sono solo delle procedure, c'è anche una sostanza. Noi non siamo in una repubblica presidenziale, siamo in una repubblica parlamentare, dove il popolo elegge il Parlamento e non il governo. Aver continuato in questi anni a far credere che si eleggeva il governo ci mette adesso in questa condizione di grande disagio. È chiaro che il capo dello Stato deve accertare quali condizioni politiche ci sono all'interno del Parlamento. Tra l'altro, a proposito di ribaltoni, devo dire che Berlusconi, in occasione del voto di fiducia di poche settimane fa, l'autoribaltone l'ha tentato lui, perché l'obiettivo che si è dato, che ha fatto scrivere a tutti i giornali, era di arrivare alla Camera a 316 voti, che è la maggioranza di 630, senza gli amici di Fini. Tant'è che aveva incaricato Nucara di tentare di arruolare un po' di deputati dell'opposizione, per arrivare a 316. In realtà essendosi fermato a 299 sulla mozione Cagliendo del 3 di agosto, alleanza di Berlusconi più la Lega, poteva forse con qualche acquisto arrivare a 305-306 come è arrivato, ma non a 316. Quindi l'autoribaltone l'ha tentato lui, perché Fini stava all'interno di quella maggioranza e il fatto di espellerlo, come correttamente ha ricordato Balducci, ha posto delle questioni rilevanti a questa maggioranza che ha fatto tutto da solo, autogol compreso. Senta, onorevole Tabacci, le voglio chiedere, perché è inutile negare che stiamo parlando di questa situazione politica sullo sfondo di tutto quello che sta emergendo, la vicenda Ruby, ora sui giornali oggi c'è la vicenda di una nuova escort che è comparsa a Palermo in una vicenda di un'inchiesta per traffico di stupefacenti, un'altra escort avrebbe detto anche lei di aver partecipato a festini, insomma il cliché che già conosciamo. Molti giornali anche si chiedono, lo stesso Vittorio Feltri in prima pagina, ma è davvero deve cadere, la cosa ridicola sarebbe una crisi di governo che cada sul bunga bunga, giusto per essere espliciti. Lei, onorevole Tabacci, no, ma scusi, ma guardi che le cose non stanno così, non è che cade sul bunga bunga o sui comportamenti sessuali del Presidente del Consiglio, cade sulle sue bugie. Marrazzo non è caduto per i suoi comportamenti sessuali, è caduto per le balle che aveva raccontato, o non è così? Mi pare che i giornalisti di indagine l'hanno fatto capire. Cioè la telefonata è la questione, la telefonata alla questura, la vicenda. Ma secondo lei cos'è questo? Ah, guardi, io dal primo giorno che dico che questa è la cosa si è accertata, allora, più grave. Un politico, un Presidente del Consiglio non può permettersi di fare o di far fare una telefonata di questo tenore, punto e a capo. Onorevole Balducci, lei che lo conosce, tra l'altro l'ha visto in questi giorni, l'ha sentito Berlusconi? No, in questi ultimi giorni no. È d'accordo che quella si è accertata? Ora Berlusconi dice: non ho mai detto che era la nipote di Mubarak, ma era lei per spacciarsi come tale, al limite, non sapevo che fosse minorenne, eccetera. Ma è d'accordo che quello è il punto da accertare e che se accertato nelle modalità di chi lo accusa di avere fatto le indebite pressioni sarebbe una questione seria, grave per un Presidente del Consiglio? Guardi, a me preme ricordare che la sostanza della posizione di questa ragazza non è mutata a seguito dell'intervento del Presidente del Consiglio, nel senso che minorenne doveva essere affidata a terzi, è stata affidata a terzi. Dopodiché ci sono delle indagini, vediamo cosa accade. Mi sembrerebbe assurdo, con tutta onestà, che si pretendesse, come attualmente fanno da una parte Fini e dall'altra le opposizioni, le dimissioni di un governo su una vicenda che mi sembra nella sostanza non abbia, diciamo, quel carattere di richiesta di dimissioni. Mi sembra che insomma diversi fossero gli altri casi. Io voglio ricordare solamente a chi ci ascolta che anche nel caso Marrazzo noi abbiamo tenuto una posizione molto sobria, senza attaccare, cioè è stata una scelta dell'interessato che ha portato alle dimissioni. Ecco, non mi sembra che noi che eravamo l'opposizione nella Regione Lazio allora avessimo montato una campagna mediatica per chiedere le dimissioni intanto io voglio ricordare su Radio24.it il 51% è per le elezioni, il 49% per il governo tecnico. Vorrei sentire qualche ascoltatore. 800 24 0024. Comincerei da Antonella da Brescia. Buongiorno. Dica. Dunque, io, come diceva la sua assistente, sì, sono d'accordissimo sulle elezioni, perché il governo tecnico assolutamente non è giusto, in quanto non sarebbe democratico. Democratico forse sì, visto che c'è una Costituzione che lo prevede. Non sarebbe, non so, usiamo un altro termine, Antonella, democratico lo è, perché siamo in una democrazia e questo è previsto. Non è giusto verso chi comunque, non è giusto per lei politicamente. Politicamente non rispecchia comunque quello che la gente vorrebbe. Secondo me è giusto che le persone vadano a votare, però anche la sinistra si deve veramente presentare con dei programmi credibili, che la smetta di stufare col discorso di Berlusconi, che si presenti con delle cose che la gente, soprattutto le classi più basse, ci credano, perché altrimenti la Lega prende giustamente tantissimi voti. Va bene, grazie Antonella. Voglio andare a Catanzaro da Pasquale, buongiorno. Buongiorno, Io sono per il governo tecnico. Io volevo semplicemente ricordare che l'Italia è una repubblica parlamentare e non presidenziale. È quello che ci ha Questa detto è una cosa, l'onorevole Tabacci. Esatto, infatti sposo completamente la linea di Tabacci, anche perché lo trovo una persona molto equilibrata. Gli faccio i complimenti, anche se non sono della sua linea politica. Io volevo semplicemente dire questo, oltre al fatto che appunto è una repubblica parlamentare, non dimentichiamoci che questo tipo di elezioni, quelle che abbiamo affrontato e in cui Berlusconi ha vinto secondo lui, ha dato un premio di maggioranza che ha falsato la reale rappresentanza parlamentare del voto nazionale. Quindi un governo tecnico è necessario in primis perché questa maggioranza non è in grado di darci un altro leader, perché altrimenti nessuno gli direbbe ad una maggioranza che va dal Presidente della Repubblica di avere un leader che li rappresenta. E in seconda parte perché questa legge elettorale è una vergogna. Quindi il governo per cambiare la legge elettorale. Non ho capito, Pasquale, ha vinto secondo lui Berlusconi. No, nel senso che non ha vinto secondo lui, ci mancherebbe altro. Ha vinto secondo lei l'ha detto, ha vinto secondo... No, volevo dire questo, mi spiego meglio. Che lui è convinto di aver vinto... direttamente, cioè la gente ha votato Berlusconi, non è così. Vabbè, la gente elettorale. Ma no, è chiaro, la gente ha votato le coalizioni, ma si sa che insomma le coalizioni prima esprimono il loro candidato premier. Grazie Pasquale. Walter da Perugia, buongiorno. Buongiorno. Mi scuso per la voce. Dica. Sono malato, sto a letto. Approfitto di chiamarvi. Secondo me, oltre qualsiasi ragionamento che è relativo alle tecniche per andare a votare o per non andare a votare, c'è quello dell'interesse nazionale. C'è un interesse nazionale che sta sfuggendo a moltissimi, che è quello di cercare di far partire un paese che non solo sta fermo, perché gli altri si muovono e quando gli altri si muovono e un paese sta fermo, il paese va indietro, è un dato oggettivo. E quindi significa che le elezioni, chi vuole le elezioni anticipate oggi, vuole perdere ancora del tempo e sta facendo dei calcoli per poter vincere il 10, al 3, il 4, ottenere il 7, l'8, il 15%, poter mandare dei propri parlamentari al governo, che è pure giusto e legittimo. Ma non fa l'interesse del paese che rimane indietro. Grazie Walter, è molto interessante la sua analisi, da qui voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Governo tecnico o elezioni in caso di crisi? Su questo oggi domandiamo ai nostri ospiti, ai nostri ascoltatori. Onorevole Valducci, io l'ascoltatore di prima dice: chi vuole elezioni non vuole il bene del paese, perché il paese così rimane arretrato e certamente non si può permettere elezioni. Però, ripeto e ritorno sull'editoriale di Stefano Folli oggi in prima pagina del Sole 24 Ore, che inizia così: un punto è certo, il governo Berlusconi è paralizzato, virtualmente morto, si potrebbe dire, per la perdita di credibilità della sua guida. Cioè la domanda è questa: non si va alle elezioni, ma questa situazione nella quale si parla di paginate sui giornali di cose che certo non sono l'interesse degli italiani, l'interesse dello sviluppo del paese, e credo che i giornali rappresentino quello che è il clima politico, non fa dire che governo è, come può muoversi politicamente, è paralizzato. Ricordo che noi non chiediamo le elezioni a tutti coloro che ci ascoltano, noi vorremmo continuare e terminare la legislatura con i 5 punti del programma che abbiamo illustrato un mese fa in Parlamento e che hanno avuto il voto di 342 deputati e di oltre 170 senatori. A mio modo di vedere la rottura di Fini ha provocato una situazione chiaramente di difficoltà di conduzione del governo e quindi... Cioè colpa di Fini, lei dice, è Fini. Non c'è dubbio che comunque non ho detto prima, Tabacci ha cercato di mettermi in bocca cose che non ho detto, Fini si è un po' messo fuori dalla porta, nel senso che dopo una serie di vittorie elettorali doveva fare la sua battaglia all'interno del movimento politico, qualora vedesse che qualcosa all'interno del movimento politico doveva essere modificato. Anch'io, voi lo sapete, sono abbastanza critico rispetto al movimento politico del Popolo Libertà, ma detto questo rimango all'interno. Vorrei solamente poi ricordare una cosa: quando il presidente Napolitano diede l'incarico a Berlusconi all'inizio di questa legislatura nel 2008, fece delle consultazioni anomale, ovvero non ascoltò tutti i movimenti politici che si erano presentati alle elezioni, ma diede direttamente l'incarico a Berlusconi. Tengo a sottolineare questo fatto perché è vero la forma, conosco benissimo la Costituzione e so che chiaramente un governo tecnico sarebbe assolutamente democratico e anche rispettoso della Costituzione. Dico che però rispetto alla Costituzione in questi ultimi 16 anni c'è una Costituzione sostanziale che anche nei fatti del Presidente della Repubblica si sono sottolineati e che quindi bisogna tenere presente di questa Costituzione ormai sostanziale, che ricordo ha portato gli elettori, i cittadini italiani, a votare per un simbolo, parlo del nostro, il Popolo della Libertà, sapendo che per oltre la metà aveva una scritta Berlusconi Presidente. Ah, e questo, onorevole Tabacci, cioè come la vede questa idea della Costituzione sostanziale? Che questo che dal 2001 è stato introdotto è chiaramente un modo di procedere che ha una natura evidentemente incostituzionale, perché come lei sa il potere di indicare la guida del governo è del capo dello Stato, non lo possono fare i cittadini, se no si deve avere il coraggio di cambiare la natura della Repubblica Italiana, trasformarli in Repubblica Presidenziale. Io non ho niente in contrario, ma vede, in America, dove adesso ci sono le elezioni di mezzo termine, ci sono dei contrappesi formidabili, tant'è che il capo dello Stato, che poi il capo del governo, può essere in minoranza nelle due Camere, ma va avanti lo stesso, mentre invece noi non siamo né carne né pesce. Tra l'altro siamo in questa condizione proprio con questa legge elettorale che la maggioranza attuale magnifica e vuole conservare. Voglio ricordare che il Porcellum è in funzione da due legislature. Quali sono i risultati? Che è durata 2 anni la prima e dura 2 anni la seconda. Beh, dura 2 anni, per ora dura, certo. Ho capito, però siccome si chiedono le elezioni, dura 2 anni, vuol dire che questa legge ha funzionato malissimo. Tra l'altro voglio ricordare, nella scorsa legislatura Prodi aveva numeri risicati, questa volta si è partiti con tanti numeri, ma poi è successa la vicenda Fini, non riepiloghiamo tutto. Antonio da Viareggio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire che siccome, cioè io sono per le elezioni anticipate, però fino a quando si preparano le elezioni, no? Sostituire subito il Premier con Mario Draghi o Mario Monti, che non esiste un'alternativa a questa maggioranza. È un governo tecnico questo, cioè nel senso, sì, cioè, no, perché non esiste un'alternativa a questa maggioranza, perché la sinistra è divisa, ci sono molti galli nel pollaio, tutti vogliono essere leader di un piccolo partito, per cui non esiste una opposizione omogenea, ognuno va per conto proprio, pensano proprio ai propri interessi e non agli interessi. Cioè lei dice ci vuole una sostituzione in attesa delle elezioni. Beh, trattasi di quella che si profila, secondo qualcuno, un governo di transizione, il tempo di rinnovare la legge elettorale, per esempio. Però lei ha usato un termine interessante, sostituzione. Vorrei dall'onorevole Valducci un commento su quello che oggi pubblica Repubblica a pagina 3, cioè sono i soliti retroscena, sappiamo, della politica, per quanto valgono, però valgono perché intercettano gli umori dei politici. Sarebbe addirittura tra i rumors la possibilità di Berlusconi che fa un passo indietro in cambio di un salvacondotto giudiziario e venga sostituito alla presidenza del Consiglio da Angelino Alfano o l'evergreen Gianni Letta. Gliela butto lì così, onorevole Valducci, dica quello che pensa di questa cosa. Quello che pensa, conoscendo Silvio Berlusconi da tanti anni, penso che sia un'ipotesi veramente di fantapolitica. Berlusconi ha ricevuto appunto il mandato popolare, cercherà di terminare la legislatura nel migliore dei modi, o se no si ripresenterà agli elettori. Ecco, non mi sembra che nelle ultime ore ci siano vicende giudiziarie tali per cui ritenga di dover fare un passo indietro. Non sono giudiziarie, ma le vicende, cioè secondo lei sopravvive la vicenda Ruby, adesso quest'altra io ricordo a lei e a tutti gli ascoltatori che nel 2009, nella primavera del 2009, la famosa bufera mediatico ma allora Fini, Fini era con voi, questo è il ma infatti, però dico, da un punto di vista di quella causa, cioè il gossip non ha prodotto nulla, è vero, quant'altro, è vero. Siamo sullo stesso tenore, ecco. Certo. È cambiato quello che dicevamo prima, no? Il dato politico è cambiato e quello è sicuramente quello che rende difficile il percorso. Questa situazione. Governo. Mi devo fermare, grazie all'onorevole Valducci e all'onorevole Tabacci, Valducci Popolo della Libertà, Tabacci Alleanza per l'Italia, per essere stati con noi, con Antonella Migliaccio in redazione, Filippo Reggi in regia. L'appuntamento, dando la linea a Oscar Giannino, è per domattina 7:20.